chiamo Ali per volare ancora. Vogliamo il sole nelle mani, senza catene siamo noi su questa terra che brucia di dolore. Aprite le braccia alla povera gente che vive ai margini di questa falsa società. E voi, falsi moralisti, strappate la maschera della vergogna. Quanta solitudine che dobbiamo ancora attraversare, perché la vita è piena di egoismi. Ma se tu mi dai la mano, possiamo trovare sorrisi e correre, correre, correre per cercare un mondo più giusto. Quante emozioni che fanno brillare gli occhi. Questa sfida ogni giorno affrontala, e noi con un destino incerto nella fame, galera e povertà. Siamo stanchi di essere soggetti delle vostre leggi.